Sono partita da mia storia personale, dalla storia delle mie figlie. Io sono antropologa, è un po' questo che fanno gli antropologi, imparano dalla vita. Quello che stavo vedendo sempre di più era che le mie bambine venivano datizzate, venivano costruite in soggetti di dati in maniera che proprio non riuscivo a capire e di cui non avevo controllo. E quindi ho deciso di creare questo nuovo progetto che si chiamava Child Data Citizen. Nel 2016 l'ho creato e ho cominciato a lavorare sia in Inghilterra che a Los Angeles, in America, perché stavo vivendo tra tutte e due le parti. E l'idea era proprio di capire che cosa stesse succedendo a tutti questi dati che venivano raccolti dai bambini da prima della nascita. In realtà è anche un po' difficile sottrarsi e quindi avere un'alternativa. Esatto, il vero problema secondo me che stiamo vivendo è che non c'è scelta, nel senso che dobbiamo per forza accettare le condizioni d'uso. Se uno pensa per esempio alle piattaforme online della didattica a distanza, ma o anche proprio i gruppi Facebook della tua scuola, no? Cioè cosa fai? Dici non faccio parte del gruppo dei genitori perché condivido i dati, a quel punto viene esclusa, no? E quindi la nostra società sempre di più sta venendo strutturata in maniera in cui quello che io definisco in un articolo del 2019 come la partecipazione digitale forzata, in cui non abbiamo scelta, non è che possiamo dire ah no, non ho questo servizio, non voglio andare su Facebook, sì possiamo, ma poi dopo tante volte magari per la scuola, per via di altre cose devi per forza farlo. E quindi secondo me il problema vero è che tante volte quando pensiamo alla privacy come un problema individuale, ma non è un problema individuale, è un problema collettivo, è un problema di società, è un problema di contratto sociale, quindi è quello che sono interessata a capire. Un aspetto abbastanza inquietante che almeno in teoria, come dire, potrebbe anche essere condizionata la nostra vita, la direzione che prende la nostra vita, cioè i percorsi, no? Assolutamente, il problema è che adesso sempre di più l'intelligenza artificiale e nelle sue varie forme, no? Come l'analisi predittiva, la riconoscimento facciale, il riconoscimento dell'emozione, stanno venendo utilizzati in diversi settori del mondo, cioè quindi se cerchi un lavoro, se hai bisogno di un'assicurazione, e queste tecnologie però tante volte ci profilano in maniera completamente oscura. Ci sono due problemi: da una parte non c'è trasparenza sulle loro previsioni, dall'altra parte, siccome sono tecnologie molto nuove, tante volte si basano su delle scienze che non sono ancora comprovate, non abbiamo ancora avuto quel dibattito sociale di cui avremo bisogno per proteggere i diritti umani. Come se ne esce? Ma quello è la domanda che mi viene posta sempre. Come se ne esce? Si esce parlandone, si esce pensando alle nostre scelte tecnologiche, cioè se sei un preside in una scuola o un genitore che manda i figli a scuola e ti viene imposta, non so, la riconoscimento facciale perché dicono che è un sistema di sicurezza, oppure anche solo vengono scelte delle piattaforme specifiche per la didattica a distanza. In realtà adesso, sperando che le cose vadano meglio con la pandemia e avremo più tempo per parlare di questo nostro bisogno di piattaforme digitali, magari è buono ripensare le tecnologie che usiamo, rivedere le condizioni di uso. Ci sono varie alternative, non dobbiamo usare sempre i big tech, e poi anche proprio ci sono nuovi business che stanno nascendo, che stanno facendo tantissimo privacy by design, quindi ci sono vari modi in cui ne possiamo uscire. Secondo me è proprio appunto ripensare al nostro contratto sociale, ripensare a cosa è successo negli ultimi 20 anni e renderci conto che quello che sta succedendo con i dati non è giusto e che se continuiamo così possiamo veramente limitare il nostro futuro democratico.